la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:31 primi in diretta qui dagli studi di Milano Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, trovate sul sito ovviamente di Radio 24, lo sapete. Vi annuncia subito, scusate un colpo di tosse, accidenti all'aria condizionata, l'argomento della puntata, e vi invito a rispondere a questa domanda se potete e volete all'800240024. La domanda è questa: ma voi, da quello che avete capito sino a questo momento, sempre che siate interessati alla faccenda, di Donald Trump che ha vinto la nomination alla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti a Cleveland, che cosa avete capito fino a questo momento? È una specie di fenomeno da baraccone, come indulge larga parte, devo dire, della stampa a descriverlo? È la conferma che anche in America il mito populista contro le élite che si vede operare nelle elezioni dei paesi europei in salsa diversa, dalla Francia Le Pen, qui in Italia 5 Stelle, Lega, e poi in Germania Alternative for Deutschland, in Ungheria, in Polonia e così via. Negli Stati Uniti prende la veste di questo tycoon che parla in un modo del tutto inedito rispetto alla politica americana, che pure è abituata a essere anche molto tosta dai lunghi anni della prevalenza repubblicana, e che però non ha mai usato i cliché le forme e i modi che invece vibrano, anzi ribollono, nel successo con cui ha travolto di volta in volta nelle primarie, pezzo dopo pezzo, tutti i candidati che gli opponeva il cuore del vecchio Partito Repubblicano, cioè tutto l'establishment, in cui diversi candidati sono stati letteralmente fatti a pezzi nelle primarie. Oppure è un pericolo pubblico addirittura, come pensano molti autorevoli commentatori italiani ed europei? Oppure invece avete un'idea diversa e dice: no, ma sarà meno peggio di quanto non viene dipinto. Viene dipinto in questo modo perché appunto è fuori dalle vecchie élite, e però questo testimonia che è l'informazione a non capire che cosa capita nella pancia e nel cuore profondo degli elettorati che non si ritrovano nelle dinamiche di reddito e di potere tradizionali. Comunque io sono interessato a sentire la vostra opinione. Mi limito a dire, prima di presentarvi l'ospite, che la convention ieri, avete seguito, insomma, ha vissuto in questi giorni di appunto conferme di questa maniera del tutto inedita di imporsi nella comunicazione pubblica. Prima l'enorme polemica sui passaggi del discorso della moglie copiati da un discorso alla convention del 2008 di Michelle Obama, con l'apparire poi di una consigliera che fa parte del team degli speechwriters della moglie di Trump, che si è presa la responsabilità. Ieri la decisione del tutto singolare di far intervenire alla convention Ted Cruz, che invece non si è confermato dalla tribuna della convention, uno che non ha chiesto di votare per Trump e quindi poi alla fine è stato subissato di rischi, di fischi. Le dichiarazioni di alcuni dei trumpisti della prima ora, che lasciano talvolta senza parole per i toni durissimi con cui trattano toni come l'immigrazione o per il modo in cui descrivono Hillary Clinton, uno degli slogan, lo slogan anzi che più risuona nella convention repubblicana, è stata "arrestatela", con riferimento allo scandalo delle centinaia e centinaia di mail scomparse al server della segreteria di Stato americano, e in particolare quelle che riguardano la vicenda libica. Quindi una convention del tutto inedita. Sì, lui ha avuto l'incoronazione, ha avuto la nomination, però con un dissenso che è rimasto fortissimo anche nei numeri della nomination. Ecco, questo è, diciamo, il quadro degli ultimi eventi, ma resta da capire cosa davvero esprime questa strategia. È una strategia solo per il consenso e poi quando diventa presidente si rimangia tutto e diventerà una persona più equilibrata? Ieri se n'è uscito Trump con una dichiarazione durissima, che ha detto: si scordino tutti i membri della NATO di credere davvero che applichiamo l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica, lo ricordo a tutti, quello che prevede l'automatico sostegno da parte degli altri paesi dell'Alleanza in caso che qualunque altro membro dell'Alleanza venga attaccato. Non è un mistero che Putin appoggi Trump e che Trump con questa sua dichiarazione si riferisse in particolare ai tre paesi baltici, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, che la Russia di Putin mal sopporta essere indipendenti e antirussi. Anzi, la NATO ha detto più volte Trump, è oramai diventato un lusso per l'America, perché questi non pagano quello che paga l'America sul PIL per la propria difesa e chiedono a noi di risolvere i loro problemi, ma se la vedano un po' loro, ecco, cioè con toni abbastanza inediti se si pensa che in questi giorni sta avvenendo quel che sta avvenendo tragicamente in Turchia, che anch'essa è membro della NATO e anzi ospita 2 dozzine di testate nucleari americane, cosa che a me preoccupa non poco alla luce del giro di vita in corso. Abbiamo stamattina appreso la sospensione della Convenzione Europea dei Diritti Umani da parte del signor colendissimo Erdogan. Allora, l'ospite ha scritto anche un libro per chi vuole approfondire, che si intitola La febbre di Trump, un fenomeno americano, per Marsilio Editore, ed è il corrispondente per il Foglio dagli Stati Uniti, quindi che ha seguito passo passo primarie e convention. Mattia Ferraresi, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Vogliamo ricordare un secondo, Mattia, a chi ci ascolta, perché tu di lì parti nel libro, dalla sua famiglia, per spiegare il padre, che tipo di eredità ha avuto, come nasce il mito, se è vero o non è vero il mito di chi si è costruito da solo, quanto è ricco davvero, perché non si riesce a capire quanto si è indebitato rispetto a quanto ricco. Cioè, nella storia pre-candidatura è un mito americano o è più una storia venduta che reale? Io credo che sia un mito americano, e parte del mito americano sia anche vendere le storie, cioè vendere il proprio mito, è anche il mito è oggetto di commercio in America. La storia di Trump è una grandissima rappresentazione di una tradizione fortissima. Il nonno arriva dalla Germania, va nella West Coast, attirato come tutti dalla corsa all'oro, e finisce addirittura nel Klondike. Molto interessante il fatto che capisce subito che il business dell'oro, cioè di trovare l'oro nelle miniere, è faticoso e poco sicuro, pone gravissimi rischi per la salute, si rischia soprattutto di tornare a casa con le tasche vuote. Mentre invece mettere su ristoranti e bordelli per i minatori, quello è un business assolutamente sicuro, perché esatto. la domanda non mancherà mai. Questo già fa capire il tipo di impostazione che quest'uomo aveva. Il figlio, cioè il padre di Donald Trump, diventa, questa è la storia interessantissima, un grande capitalista, un grande costruttore, e costruisce palazzi per la classe medio-bassa, tutto edilizia convenzionata, non sgancia un dollaro di suo. Cioè fondi di suo, pubblici a gogo, coinvolto in storie di corruzione. Ti dico solo per dare contesto a chi, diciamo, magari non ha familiarità con certi temi, nel 1970 a New York il 94% delle case costruite a New York era finanziata da fondi pubblici. Questo, insomma, diciamo, i veri capitalisti sapevano da che parte stare, cioè dalla parte dello Stato, in quel caso, perché lì giravano i soldi. Quindi è un grande capitalista di Stato, uguale identico a Donald. Ma quindi io credo Donald che non parte da zero, a proposito di miti americani, però. No, non parto da zero. Lui nega questo, ma qualunque indicazione, anche se lui diciamo oscura i conti, crea scompiglio, cerca di non far capire, eccetera, evidentemente non parte da zero assolutamente. Ricordiamo che uno dei punti fermi tra campagna e primarie fino a questo momento è non dichiarare quanto paga le tasse. Certo, questo sempre. Per capirci, ecco, cari ascoltatori, va bene. Detto tutto questo, però, lui interviene, fa una specie di cambio strutturale, cioè sì, va bene l'immobiliare, ma quello che conta è l'intrattenimento, stare sul palcoscenico, puntare a operazioni che facciano parlare tantissimo, che attirino il jet set, un'altra interpretazione. Sì, io credo che anche questo, teniamo presente, in America questi due elementi che abbiamo toccato, soprattutto l'elemento direi immobiliare, che è il grande business americano, che fa del grande imprenditore americano un vero uomo della nazione. Che fa anche esplodere poi nel 2008 la Lehman, ecco. Beh certo, ma questo è tutto dentro il contesto. Questo si incrocia sempre con l'idea dello spettacolo. Sì. P.T. Barnum, il l'iconico magnate del circo che tutti conosciamo, perché dopo è diventato una globale, lui era così, faceva i soldi con l'intrattenimento e reinvestiva in case, sì, era sì. Un impresario, un intrattenitore, ci sono moltissime analogie, si potrebbero fare centinaia di esempi. Il vaudeville è nato così, come anche una strategia di impresa di teatro itinerante. E quindi questo è il retroterra. Resta il fatto che poi a un certo punto, lui negli anni più recenti, però quando parla di politica, lui sostiene la famiglia Clinton. Ah, certo. Beh, io voglio dire, sostiene, lui è stato il più grande finanziatore di David Koch, il sindaco di New York, che era anche il suo peggior nemico. Sì, appunto. Lui, appunto, essendo un uomo di affari, un artista del deal, della contrattazione, del negoziato, come dice lui, è assolutamente parte del personaggio che ci sia una perfetta, sintesi e fra qualunque posizione politica permetta di far sopravanzare l'interesse. È assolutamente dentro la natura del personaggio. Sostiene la famiglia Clinton, essere liberal di impostazione, come lo sono la maggior parte dei newyorkesi, specialmente quelli facoltosi, e di quindi lui sostenere... non ha niente a che fare, questo lo diciamo, con la destra religiosa repubblicana antiabortista, cioè, niente, nella sua vita non c'è traccia di tutto questo. Io trovo che sia la cosa più lontana, esatto, in assoluto da Donald Trump. Esattamente. E a un certo punto però gli scappa una dichiarazione: ma se un giorno dovessi mai pensare di candidarmi alla presidenza degli Stati Uniti, lo farei nel Partito Repubblicano. Hanno una base così ignorante che possono credere a qualunque frottola. Testuale. Sì. Ecco. Io, allora, direi un elemento qui. Bisogna fare una distinzione, decidersi su una cosa, io credo, per affrontare il fenomeno Trump. Se è un impazzimento, è un'anomalia totale, è una patologia del sistema americano, va bene, uno così lo tratta. Può capitare anche a loro. Certo, la versione opposta è no, invece Trump è proprio il prodotto di una tradizione specifica. Questa tradizione specifica di cui lui non... Io sono di questa seconda scuola, assolutamente, ho cercato di scrivere un libro per spiegarlo e per argomentare. Lui non sa nulla di questa tradizione di cui è parte, la interpreta istintivamente, ne è un eroe inconsapevole, non è un teorico, non ci aspettiamo questo, ma interpreta un'idea nazionalista e di quella che chiamano la vecchia destra, cioè la destra così com'era prima della Seconda Guerra Mondiale, sì. Che è rimasta iscritta nella Costituzione materiale di questo paese. Cioè, diciamo, nel DNA, insomma, popolare. Rispetto a Roosevelt, che tutti conoscono qua, quelli Franklin Delano, Theodore Roosevelt più che altro, ecco. Sì, Theodore Roosevelt, McKinsey, Taft, personaggi che abbiamo dimenticato in parte. In Europa ha dimenticato, sì. Sì, in parte anche Calvin Coolidge. Il suo genio è questo, aver capito che come in lui stesso sono rimasti intrappolati certi tic, certe inclinazioni ideologiche, una certa idea del mondo, allo stesso modo anche nel popolo a cui lui si rivolge è rimasta intrappolata questa cosa, largamente inconsapevole. È per questo che ci arriva al e che naturalmente abbatte le tradizioni intellettuali, politiche del dibattito pubblico americano da Reagan in avanti, sia a destra, cioè Weekly Standard, Cristo il padre e figlio, i neocon, niente di tutto questo, non c'è niente di tutto questo, c'è una tradizione preesistente sull'America grande, più isolazionista, assolutamente non troppo globalista, magari dazi eccetera eccetera, a seconda della forza del paese con cui si tratta, senza schemi generali, e tu dici però questo ci sta nella tradizione americana. Questo ci sta perfettamente. C'è stato un fraintendimento, io credo, nel mondo conservatore, in generale nel pensiero americano, che è quello che, diciamo così, per semplificare, chiamiamo la fine della storia. La guerra fredda finisce, i totalitarismi perdono, siamo tutti felici in un ordine liberale democratico che vince come destino ineluttabile. Che, come si vede, infatti, i fatti della storia smentiscono molto amaramente questa tesi. La storia è su di giri, non solo è riniziata, ma sta facendo le sgommate. Per cui io credo che questo contenga benissimo già tutti gli elementi del trumpismo. Noi ci eravamo illusi che questo fosse la fissità, ma e per questo io dico, la convention di Cleveland, che sto seguendo come tutti da ovunque nel mondo, sotto la superficie di quello che sta accadendo, degli avvenimenti, può essere letta, io trovo, come un atto atto di restaurazione, cioè non è un atto di rottamazione, ma è il suo opposto, è un atto di restaurazione di una tradizione preesistente. Resta il fatto che però tutta l'espressione istituzionale nelle diverse anime, sono diversissime, del Partito Repubblicano, questa roba non l'ha capita per anni. Ha trattato Trump come uno che si sarebbe per forza arreso. Quando ha iniziato a vincere ha detto ma ti arrenderai comunque. Quando aveva superato la soglia per che serviva per la nomination, dicevano ma no, vedrai che ti troviamo un candidato diverso e tu non potrai che arretrare. Allora, su queste osservazioni però ci vuole una spiegazione, perché la storia di questi ultimi due anni del Partito Repubblicano è proprio la sparizione, l'annullamento totale di un'intelligenza politica. Allora, la risposta, ripartiamo da qui tra un minuto, intanto l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando del fenomeno Donald Trump, che ha avuto la nomination alla convention del Partito Repubblicano in corso a Cleveland, e da Cleveland è collegato con noi Mattia Ferraresi, che la segue per Il Foglio ed è autore di un libro che io raccomando veramente a tutti, soprattutto a chi non segue abitualmente le cose americane, quindi magari deve prendere le cose un po' alla lontana, capire qual è la storia, l'evoluzione della persona, della sua famiglia, cosa ha fatto eccetera eccetera, Donald Trump, senza fermarsi al colore quotidiano. E il libro si intitola La febbre di Trump, un fenomeno americano, Marsilio editore. Allora, ci eravamo lasciati nel dire ma com'è possibile che il Partito Repubblicano non abbia capito, se è vero, io aderisco a questa tesi, quella di Mattia Ferraresi, che in realtà Trump non è solo un fenomeno così che viene da un altro mondo, è la restaurazione di un filone, di un pezzo culturale, di storia della destra nazionale repubblicana e americana. Non viene dal nulla, c'ha dei precedenti storici abbastanza pesanti, al di là del colore con cui si esprime, però il Partito Repubblicano questo non lo ha capito. Allora, prima di sentire cosa pensa Mattia di questo, un ascoltatore, Alessio da Udine, come la pensa su Trump, Alessio? Sì, buongiorno. Ma sì, io la penso semplicemente, secondo me lo stiamo sottovalutando. Lo stanno sottovalutando un po' la stampa europea, come spesso accade. È accaduto anche nelle precedenti elezioni, quando c'era Obama contro... no, come si chiamava? Quel... Michele, però lei dice è un problema culturale che abbiamo in quanto europei e italiani, lei dice. L'Europa, che quando c'è qualcosa di nuovo sembra impossibile che possa vincere, e magari non vincerà, però sicuramente lo stiamo sottovalutando, non stiamo capendo qualcosa. No, lo stiamo trattando più che altro come un fenomeno da baraccone, questo è quello che è evidente, dico, anche grandi autorevolissimi giornali, ovvio che Repubblica c'ha un bias perché è del repubblicano, però devo dire che un po' dovunque nei grandi giornali c'è questa fortissima propensione. Pierpaolo da Bologna, lei che pensa invece, Pierpaolo? Buonasera. Niente, il mio pensiero viene un po' da lontano, nel senso che è un pensiero storico. Io credo che ci siamo lasciati alle spalle, già alla fine del secondo conflitto mondiale, una paura del rigore e una paura della giustizia, perché quando uno chiede rigore e giustizia, automaticamente viene subito tacciato dei soliti termini che sono razzista, fascista, nazista e quant'altro. Questa paura che ci siamo lasciati alle spalle ci ha fatto vedere cose inenarrabili in Europa, in Italia e soprattutto, ma comunque credo anche in America, soprattutto dopo, diciamo, l'avvento dei Bush, inenarrabili nel senso di ingiustizie, cose che alla gente fanno veramente male, anche se poi dopo non scende in piazza. Ma lei dice sociali, ovviamente, sì, sociali, di reddito persone, e così via, persone, che poi nella crisi sono un po' esplose, fino a Occupy Wall Street e così via, largamente sopravvalutato però dalla stampa italiana ed europea, se posso dire, come tutti i fenomeni degli Occupy vari in tutta Europa. Quindi lei dice abbiamo cancellato l'idea di governi forti e Trump invece ripropone questa cosa, al di là della paura dei governi forti che ci portiamo dietro per via delle storie diverse. Però insomma, l'America ha una costruzione che regge ed è la migliore del mondo dal mio modestissimo punto di vista. Cosa diversa però dal dire che chiunque vota Trump, come si legge sui giornali italiani, è uno che va in giro con il fucile mitragliatore in spalla, perché noi leggiamo queste cose, ci sono anche quelli, ma non è che siano quelli la stragrande maggioranza. Andrew da Milano, Andrew, come la pensa lei? Sì, buonasera a buonasera, tutti. Sì. Anch'io ho scritto un libro su Trump, si chiama Perché vince Trump, appena uscito in questi giorni. Editore? Mimesis. Marsiglio è quello di Ferrari. Sì, esattamente, di cui stiamo parlando. Mimesis, sì, grazie di aver chiamato. E quindi come la pensa? Ma Donald Trump rappresenta la rivolta degli elettori americani, è questo che cerco di spiegare nel libro, ma non è solo Trump, è anche Bernie Sanders. Esatto. E noi vediamo una popolazione che ha sentito dire più o meno bugie dall'establishment, dai politici per molti anni, su come le cose vanno meglio, l'economia si è ripresa bene dalla crisi e quindi va tutto bene, ma una grossa fetta della popolazione non vede questo. Non vede questo e quindi non tocca sul loro reddito la ripresa che c'è. Anzi, la mia opinione, Andrew, è che proprio la presenza di Donald Trump nell'altro campo ha per la prima volta consentito da tempo immemorabile a una parte dell'elettorato democratico nelle primarie di dire: beh, ma allora anche noi possiamo votare uno più socialista che non socialista per la presidenza. Quindi questo secondo me ha spiegato, fa bene secondo me, sono molto d'accordo con lei, la ringrazio, a far rilevare che l'altra anomalia era appunto Bernie Sanders, che ha messo una paura del diavolo in realtà alla Clinton in gran parte delle primarie. Grazie Andrew. Torniamo a Mattia Ferraresi, ma com'è che il Partito Repubblicano ha mostrato questo gap totale? È come se fosse imploso e non ha capito il fenomeno. Cioè, le radici ideologiche che abbiamo detto ci sono tutte, cioè una disconnessione proprio profonda con il sentire del popolo. Questo va avanti da 50 anni, ma si è sempre sopperito con altri metodi. E dico, i partiti in America, per varie ragioni che non stiamo a approfondire, sono fatti anche in modo che sia un'elite a decidere il candidato, cioè è fatto così. C'è un famoso studio di qualche anno fa che si chiamava proprio The Party Decides, perché il partito alla fine decide. Ecco, ma questa è la tempesta perfetta, disconnessione ideologica qui sopra, sommata al fatto che il partito tira fuori 16 candidati, uno più debole dell'altro, cioè non riesce a mettersi d'accordo, perché se si fosse messo d'accordo su un nome sarebbe andata come è sempre andata. Questa è la mia opinione, non c'era una differenza. Ma è questo che ha testimoniato proprio casticamente, ha dato proprio l'idea del fatto che non esisteva più il Partito Repubblicano, voglio dire, della deriva trasformativa dei Bush, cioè in tutte le sue diverse versioni erano candidati nessuno dei quali poteva reggere a questa cosa. Secondo me proprio non hanno capito la faccenda. Diciamo così, nel tempo io trovo che l'ideologia si sia un po' sgretolata o si sia, ma la struttura ha tenuto, adesso anche la struttura ha ceduto. A questo punto i sondaggi che leggono qui i nostri lettori e quello che sentono in radio e in televisione, cioè che a questo punto significa che comunque la vittoria di Hillary, alcuni dicono al 72, al 76%, è stracerta di fronte a un Trump che dice, parla in un modo così brutale, e ti vede convinto anche a te oppure no? A questo punto, essendo stato io un antitrumpista convinto, come in buona compagnia, di non essere, che fosse una flatulenza del sistema che si sarebbe evaporata presto, a questo punto non so più cosa dire, come tutti gli altri. Certo, la sensazione è che siamo in un territorio uncharted, come esatto, dicono gli americani. Come dicono le banche centrali delle politiche non ortodosse. Non è mappato, quindi forse anche... No, perché anche a volte dicono, ma vi fidereste voi di mettere il basket nucleare, la valigetta con i missili nelle mani di uno che ragiona in questa maniera? Io sono convinto che se fosse eletto, neanche io ero un trumpista a dire la verità, però non mi sono illuso, non ho creduto che Rubio, per esempio, potesse farcela contro Trump. Ma detto questo, io penso che quando diventasse presidente, se mai diventasse presidente, non avrebbe questa follia. Però posso sbagliare. Io personalmente trovo che questo argomento, cioè l'argomento che io chiamo caratteriale, cioè non ha la tempra giusta, trovo che sia il più debole fra tutti gli argomenti contro Trump, perché appunto rifiuta di prenderlo in considerazione come un attore razionale, parte di una tradizione, con espressione anche inconsapevole di un'ideologia, e lo riduce così a una piccola sciocchezza, un cartone animato. Ecco, trovo che sia un po' sciocco ragionare condivido così. Provoco sempre chi porta avanti questo ragionamento dicendo: trovatemi una situazione in cui Donald Trump ha agito irrazionalmente nel suo business, nei suoi affari. Non so, conosco un po' adesso la biografia di Trump, non ho trovato ancora tante testimonianze in questo senso. No, disinvoltura sì, follia mai. Ecco, questo è un po'... perché in quanto a disinvoltura vorrei dire che Hillary Clinton è una specie di enciclopedia nella sua vita, visto che ha inseguito la presidenza da prima di incontrare il suo marito quando andava all'università. Questo è un fatto, quindi non, le speculazioni edilizie, i collaboratori suicidi sulle panchine di fronte alla Casa Bianca, cioè ce n'è di che scrivere enciclopedie anche lì, solo che questo naturalmente poi a chi la guarda con occhi europei sparisce tutto questo su Hillary Clinton. Allora, che dire, Stephen Hawking, il grande fisico di cui conoscete il mito fisico, dice che in realtà Donald Trump è un fenomeno imperscrutabile quanto le vere cause dell'origine dell'universo. Vedremo se andrà così. Di sicuro è un fenomeno politico che ci dice che anche in America grandi novità sono figlie di una crisi che non abbiamo ancora capito, secondo me. E io temo che anche quello che si vede nelle convulsioni politiche italiane in Europa sia sotto la stessa matrice. Quindi vediamo se la razionalità ritorna e soprattutto impariamo a non demonizzare e a ridurre a caricature quelle di cui non condividiamo le idee. Grazie a Mattia Ferraresi, continuate con la 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con me, Alessandro Mina, attenti a noi due.